نبع الحياة. Lapida, lapida, chi lapida, umili al mondo. La mano che frusta una fionda che squarcia profondo. Chi di violenza si nutre, beve acido, uccide se stesso. Chi ne fa legge dimostra che è solo pazzo perverso. Chi ne fa legge dimostra che è solo pazzo perverso. Sento le frustate che date sul mio petto. Cannibali mani che inchiodano l'odio a un perenne conflitto. Trascinano sangue e martellano il corpo in un pozzo. Ladri che in nome di un Dio uccidono Dio stesso. Ladri che in nome di un Dio uccidono Dio stesso. Quando lapidate una donna state lapidando il mondo. La vostra giustizia è sangue, un sangue di fango. Per quanto tempo dovremo ancora subire la vostra indecenza? Per quanto tempo dovremo ancora sopportare la vostra ignoranza? Vi comportate come gli inquisitori del Cinquecento e costruite il vostro potere sulle tempeste del vento. Sanguisughe del popolo di cui non avete rispetto. Lapidate la vita perché la vostra è morta da un pezzo. Lapidate la vita perché la vostra è morta da un pezzo. Nelle piazze le pietre lanciate contro i peccatori. Ma siete il peggio del peggio, siete voi i veri assassini. La vostra colpa è più grande di ogni misera miseria. Ogni condanna sarà condannata da tutta la storia. Ogni condanna sarà condannata da tutta la storia. Quando lapidate una donna, state lapidando il mondo. La vostra giustizia è sangue, un sangue di fango. Per quanto tempo dovremo ancora subire la vostra indecenza? Da quanto tempo dovremo ancora sopportare la vostra ignoranza? La storia dell'uomo è una croce di crocifissioni. Musulmani, indù, ortodossi e protestanti, cristiani. In nome di una fede hanno ucciso, umiliato ogni voce. In nome di una fede hanno ucciso, umiliato la pace. In nome di una fede hanno ucciso, umiliato la pace. Che il vostro Dio vi accompagni nelle strade del vostro inferno. Che il vostro Dio tenga conto del vostro lurido inganno. Vi aspetto alla luce del giorno, uomini senza ritegno. Voi che date vita alla morte con il vostro scempio. Voi che date vita alla morte con il vostro scempio. Quando lapidate una donna, state lapidando il mondo. La vostra giustizia è sangue, un sangue di fango. Per quanto tempo dovremo ancora subire la vostra indecenza? Per quanto tempo dovremo ancora sopportare la vostra ignoranza?